Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Manuale di omosessualità di Progetto Gay, capitolo 5. Capire e ragionare senza panico. Quando un ragazzo che arriva alla consapevolezza di essere gay vive in ambienti omofobi o è stato abituato a vedere l'omosessualità come una malattia, come una perversione o come un peccato, quel ragazzo sarà indotto a considerare l'omosessualità come una catastrofe incombente su di lui, in grado di schiacciarlo e di condizionare negativamente tutta la sua vita. In simili situazioni non è raro che lo sconforto possa essere così profondo da indurlo a pensare al suicidio come unica via d'uscita. Per un ragazzo che si riconosce gay e vive in un ambiente omofobo, è indispensabile tenere presente che le valutazioni devono essere date a mente fredda, senza farsi prendere dal panico e sulla base di una conoscenza reale di ciò che si sta per affrontare. Si può anche essere terrorizzati dall'idea di essere aggrediti dai fantasmi, ma oggettivamente i fantasmi non esistono. In primo luogo, un ragazzo gay deve cercare di conoscere la realtà del mondo gay. Intendo dire del vero mondo gay, non di quello delle barzellette o delle leggende metropolitane, perché è proprio dalla confusione tra leggende metropolitane e realtà oggettiva che deriva la gran parte delle paure nei confronti dell'omosessualità. Esiste quindi la necessità di tenere sempre presenti alcuni elementi di base circa l'omosessualità, sui quali mi soffermerò ora. Prima di tutto cerchiamo di capire quanti sono gli omosessuali e limitiamoci all'Italia. Dato che gli omosessuali pubblicamente dichiarati sono una frazione stimata di circa il 4% rispetto al totale, effettuare delle rilevazioni di dati che coinvolgano anche la gran massa dei gay, cioè i non dichiarati, è praticamente impossibile. Sono stati fatti quindi dei test del tutto anonimi e quindi potenzialmente veritieri su campioni anche ampi di popolazione, sulla base di due criteri distinti. Uno consiste nel considerare omosessuali coloro che hanno o hanno avuto relazioni omosessuali, e l'altro consiste nel considerare omosessuali coloro che si ritengono tali, indipendentemente dal fatto che abbiano o abbiano avuto una sessualità gay di coppia. I due sondaggi, condotti con i due diversi criteri, danno dei risultati secondo i quali coloro che si sentono omosessuali sono circa il doppio di coloro che hanno o hanno avuto una relazione omosessuale. Dalle statistiche di Progetto Gay risulta che all'età media di anni 25,81 il 45% e oltre di coloro che si ritengono gay non ha mai avuto rapporti sessuali, né etero né gay. Sullo stesso campione si rileva che la masturbazione avviene con fantasie gay in oltre il 99% dei casi. Questo fatto conferma che le fantasie che accompagnano la masturbazione sono l'indice fondamentale dell'orientamento sessuale. Le stime più attendibili della percentuale di coloro che si ritengono gay oscillano intorno all'8% della popolazione generale. Si tratta oggettivamente di una minoranza, ma certo non di una minoranza esigua. Le rilevazioni danno risultati simili sia tra gli uomini che tra le donne. L'omosessualità è quindi una realtà che coinvolge uomini e donne più o meno nella stessa misura. Dire che gli omosessuali sono circa l'8% della popolazione generale non è immediatamente significativo. Vale quindi la pena di presentare lo stesso dato attraverso esempi immediatamente comprensibili. In una classe di 25 studenti, in media, ci sono due ragazzi omosessuali. In una scuola con 1000 studenti, ci sono in media 80 studenti omosessuali. In Italia, circa 61 milioni di abitanti, ci sono circa 4 milioni e 800 mila omosessuali tra uomini e donne. Grosso modo la popolazione dell'intero Veneto. Questo numero comprende anche i bambini che statisticamente si riconosceranno omosessuali nel corso della vita. Si capisce che per quanto minoranza, i gay sono comunque moltissimi. A fronte della percentuale complessiva stimata al 4% di gay dichiarati sul totale dell'intera popolazione gay, si osserva che il campione esaminato in Progetto Gay di età media 25,81 anni, presenta una percentuale di gay pubblicamente dichiarati superiore al 13%. Anche se il campione non è statisticamente significativo e il valore indicato è certamente più alto di quello relativo alla popolazione gay generale, resta comunque il fatto che le generazioni più giovani hanno una maggiore propensione a dichiararsi pubblicamente. In tutte le classi di età, la percentuale di gay non pubblicamente dichiarati resta nettamente più alta di quella dei dichiarati. È comune esperienza di tutti che anche se ci sono in media 80 ragazzi gay su 1000 studenti, non se ne individua praticamente nemmeno uno, perché l'omofobia esiste come e il non dichiararsi è considerato come l'unica difesa possibile. Sintetizzando quanto detto fino adesso, possiamo concludere che i gay, anche se non riconoscibili perché l'omofobia ambientale li spinge a non dichiararsi, sono comunque intorno a noi e questi ragazzi, anche se non sono pubblicamente dichiarati, sono comunque alla ricerca di un dialogo e di un contatto con altri ragazzi gay, perché il primo problema dei ragazzi gay consiste nel sentirsi soli. Prima di procedere, è bene soffermarsi un po' su un altro genere di preconcetti, o per meglio dire di favole legate alla realizzazione del sé. I ragazzi gay, come tutti i ragazzi, crescono con dei miti indotti dal clima culturale che hanno intorno. Uno di questi è il mito del principe azzurro. È un mito che è stato creato per le ragazze, per indurle a non abbattersi, ma a sperare nell'arrivo prima o poi del classico principe azzurro capace di trasformare Cenerentola in una regina. In realtà questo mito spinge a non agire, aspettando che qualcuno cambi radicalmente la nostra condizione. Un mito del genere, fatte le dovute differenze, si può trasporre facilmente in chiave gay e tra i gay provoca danni analoghi a quelli che provoca in campo etero, spingendo i ragazzi a sognare invece che a ragionare e ad aspettarsi soluzioni miracolistiche provenienti dall'esterno per i propri problemi e le proprie difficoltà, invece di darsi da fare impegnandosi seriamente in prima persona. Per un ragazzo gay, più che per un ragazzo etero, è indispensabile la conquista di una propria autonomia, perché in genere un ragazzo gay non può fare troppo affidamento sul sostegno che gli potrebbe venire dalla sua famiglia o dal contesto sociale. L'autonomia non è un mito analogo a quello del principe azzurro, ma è una realtà concreta ed essenziale. La vera autonomia esiste solo quando c'è una vera indipendenza economica, cosa certamente non facile da realizzare. L'autonomia come indipendenza e quindi come libertà sostanziale di scelta deve essere l'obiettivo di fondo di un ragazzo gay. Chi non può fare troppo conto sull'aiuto degli altri può reagire o con la passività e col fatalismo, lasciandosi andare ad accettare qualsiasi imposizione e qualsiasi adattamento, oppure guardando avanti con atteggiamento costruttivo, progettando il proprio futuro passo dopo passo e orientandolo, prima di tutto, alla conquista di una piena autonomia personale, cioè in primo luogo dell'autonomia economica. Gli strumenti concreti per la conquista di una vera autonomia sono solo due: lo studio e il lavoro. Studiare per un ragazzo gay ha almeno due funzioni. La prima è comune anche ai ragazzi etero e consiste nell'ampliare la propria cultura generale e nel dominare gli ordinari strumenti di analisi critica e di comunicazione. E l'altra, specificamente gay, consiste nella scoperta del peso dell'omosessualità nella cultura. Da Platone a García Lorca, da Michelangelo a Pasolini, da Marsilio Ficino a Luchino Visconti. Rendersi conto del peso e del senso che la cultura omosessuale ha avuto e ha nella storia, nonostante le repressioni e le discriminazioni, significa ritrovare le proprie radici e riconoscersi in una tradizione di alta cultura e di grande dignità. Ovviamente lo studio ha anche una funzione strumentale e permette di accedere a lavori più qualificati e retribuiti che possono garantire una maggiore indipendenza. Non va dimenticato che la ricerca della vita di coppia non può in nessun caso sostituire la costruzione del sé attraverso l'indipendenza sostanziale, cioè attraverso l'indipendenza economica. Si deve stare in coppia perché ci si sta bene. Quando lo stare in coppia è strumentale ad altri fini, la relazione di coppia poggia su basi fragilissime. Si sta bene in una relazione di coppia quando ci si sta per scelta e non per necessità. Accade spesso che dei ragazzi gay arrivino a realizzarsi attraverso lo studio e poi attraverso la loro attività professionale. Tutto ciò è altamente positivo, ma nasconde in qualche caso la rinuncia aprioristica alla vita affettiva. Essere gay e cercare di realizzare prima di tutto la propria indipendenza non significa affatto dover rinunciare alla propria vita affettiva. Quella vita affettiva però non può e non deve essere identificata con la totalità della vita, perché il benessere, che pure ha una fortissima componente affettiva, può essere di fatto impossibile quando mancano i suoi presupposti minimi, che in una vita adulta sono inevitabilmente di natura economica. Quindi, come non ha senso puntare in modo esclusivo sulla ricerca dell'autonomia economica mettendo da parte l'affettività, così non ha senso farsi travolgere dall'affettività trascurando i presupposti materiali del benessere individuale. Che un ragazzo gay giovanissimo possa farsi travolgere dall'affettività e dalla sessualità è ancora comprensibile, ancorché spesso inopportuno. Ma un adulto non può non tenere i piedi per terra e deve dare allo studio e al lavoro uno spazio adeguato a permettere l'effettivo conseguimento e possibilmente in tempi normali, se non addirittura accorciati, dell'indipendenza. Sorge qui spesso una forma di scoraggiamento. Gli studi appaiono troppo difficili, molto lunghi, non ci si sente adeguatamente preparati e la tentazione di gettare la spugna si fa strada facilmente. E a questo punto deve subentrare la volontà. I risultati derivano essenzialmente dal lavoro e dall'impegno personale e da qualsiasi livello si parta è sempre possibile fare ancora molta strada. Non sono i cosiddetti geni che vanno avanti, ma le persone che hanno voglia di impegnarsi e che si impegnano concretamente per superare le difficoltà. Troppo spesso siamo indotti a sottovalutarci per esimerci dall'impegno serio. E in questo modo tendiamo a confondere il non posso con il non ho voglia. Vale qui la metafora del contadino. Se in un campo c'è un contadino che lavora e in un campo vicino ce n'è uno che non fa nulla, è ben vero che quello che lavora potrebbe anche perdere il raccolto a causa di condizioni meteorologiche avverse, ma resta comunque il fatto che quasi sempre il contadino che lavora avrà il suo raccolto per l'inverno e l'altro sarà ridotto alla fame. Costruire in qualsiasi ambito richiede tempo e impegno. Ecco perché i propagandisti di scorciatoie e i venditori di soluzioni facili sono quasi sempre venditori di fumo che indicano strade che non portano da nessuna parte. Ciò che è servito su un piatto d'argento nasconde spesso delle insidie. Mi riferisco ai siti di incontri e alle chat erotiche. Se è pur vero che è possibile trovare amici e al limite perfino un compagno in questi siti, resta comunque il fatto che la finalità di questi siti è un'altra e che la maggior parte delle persone non li frequenta per cercare amicizia o amore, ma per cercare sesso disimpegnato. Il problema di fondo di un ragazzo gay, cioè il problema della solitudine, ha due soluzioni distinte. La prima consiste nel trovarsi un ragazzo, la seconda consiste nel trovarsi degli amici gay. Bisogna sottolineare subito che nessuna di queste due cose da sola può portare al benessere individuale. Mentre sembra ovvio che l'avere amici gay senza avere un ragazzo debba essere considerato insoddisfacente, non sembra invece che avere il ragazzo senza avere amici gay sia di per sé preclusivo del benessere individuale, perché si presume che il proprio ragazzo sia insieme l'amante, l'amato, l'amico, il confidente, tutto. L'esperienza insegna che paradossalmente le amicizie gay contribuiscono al benessere individuale addirittura più del fatto di avere un ragazzo, perché le amicizie stabilizzano, mentre le vicende amorose, specialmente all'inizio, destabilizzano o possono destabilizzare in modo molto forte. La dimensione affettiva deve necessariamente trovare appoggio sui due binari del legame di coppia e dell'amicizia. E mentre senza un legame di coppia si può stare certamente bene per lunghi periodi e al limite anche per tutta la vita, senza amici si sta decisamente soli. L'amicizia esorcizza la solitudine e nello stesso tempo allontana la paura dell'omosessualità perché consente una conoscenza personale, non superficiale, di altri ragazzi gay. Stimola il confronto e ci mostra come gli amici stanno impostando o hanno impostato le soluzioni dei problemi che ci accingiamo noi stessi ad affrontare. Nell'amicizia, analogamente a quanto accade nell'amore, la differenza tra il vero amico e colui che non lo è non si evidenzia dall'apparente consistenza iniziale del rapporto, ma dal suo articolarsi nel tempo e dalla sua capacità di resistere ai momenti di crisi e alle incomprensioni che inevitabilmente si realizzano in qualsiasi rapporto. Quando si considera il fatto di essere gay come una calamità, non ci si rende conto di una verità di fondo, la cui negazione è alla base di ogni forma di paura dell'essere gay, cioè non ci si rende conto che per un gay oggi è realmente possibile essere felice. È possibile avere amici gay seri e non è nemmeno difficile. È un po' più difficile trovare un partner con cui costruire un rapporto destinato a durare, ma questo è difficile anche per gli etero, per i quali non è affatto scontato che il matrimonio rappresenti l'incarnazione del mito della famiglia ideale, anzi, in genere non è così. Anche i gay devono guardarsi dai falsi miti, in nome dei quali spesso si svalutano le persone e le situazioni reali. L'amore e l'amicizia non sono favole, ma esercizi di realtà, cioè vere palestre in cui giorno dopo giorno si impara ad amare attraverso tentativi ed errori. Amare veramente significa amare una persona reale, non un modello teorico. Ma amare veramente è possibile ed è una realtà che cambia la vita dall'interno perché comporta l'esperienza profonda dell'essere in due. Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica del tutto fuori dal coro.